Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica, di Simone Spezia. Una buona giornata, gentili ascoltatori, da Simone Spezia, benvenuti a Voto Antonio. Come al solito, anche questa settimana cerchiamo di raccontarvi come la rete cambia la politica, ma anche come voi potete provare a cambiare la politica con la rete. Cercheremo di approfondire alcuni argomenti. Nelle settimane scorse, come era ovvio, ci siamo concentrati molto sull'estero, in particolare sugli Stati Uniti, sulla Cina. Questa settimana torniamo belli tosti sull'Italia, parleremo di primarie del PDL, parleremo di Beppe Grillo. I nostri contatti: votaantonio@radio24.it, votaantonioR24 l'account Twitter, votaantonioR24 anche la pagina Facebook. Trovate anche me su Twitter se volete, Simone Spetia. Iniziamo come sempre da qualche notizia in breve. Beh, la settimana ha offerto poco al di là delle primarie del centrosinistra, del dibattito per le primarie del centrosinistra che ha dominato tutto. L'analisi sui numeri è stata curata da Blogmeter. Iniziamo un paio di note, forse qualcosa che avete già letto, vale la pena tornarci comunque. L'hashtag era CSX Factor, coniato da quel geniaccio di Noam Fup, ossia Filippo Sensi. È stato primo nelle tendenze mondiali di Twitter, 127.000 tweet con tre picchi quando si è parlato di Marchionne, quando si è parlato del Pantheon, infine gli appelli elettorali. C'è stato tra le tendenze mondiali di Twitter anche la parola Tabacci. Sapevamo di non potervela far mancare. Il formaglione, ossia il maglione disegnato da Formigoni, è stato infine assegnato al follower numero 40.000. Oltre ad essere un oggetto orribile, il vincitore, abbiamo appreso poi, è il marito di una signora che fa parte dello staff del presidente. Altro tweet memorabile di Formigoni, quello nel quale posta la foto di un topo che gli attraversa la strada in un corridoio della metropolitana e scrive: ma è più dannoso un topo o un grillo? Questo è il livello dell'umorismo. Riccardo Scandellari sul suo blog scrive che Formigoni sta esercitando la strategia della distrazione, ben teorizzata ed esplicata da Noam Chomsky, ossia deviare l'attenzione del pubblico dai problemi importanti attraverso la tecnica del diluvio o inondazione di continue distrazioni e di informazioni insignificanti. Non sappiamo se è la lettura corretta, ma è comunque interessante. Ancora sulle primarie del PD dobbiamo segnalarvi la nascita di una serie di profili fake, ossia finti. Innanzitutto una serie, ce ne sono una serie su Twitter dedicati a Oscar Giannetto, che è la storpiatura del nome di Giannino data da una sostenitrice di Vendola durante il dibattito. E poi dopo l'imbattibile, veramente imbattibile, marxisti per Tabacci, che continuiamo a consigliarvi, nasce Camerati per Renzi. Una delle cose che ci si trovano: le nostre forze avanzano decise, le parole del Duce piovute come bombe sulla gerontocrazia del partito hanno colpito nel segno, il popolo è con lui, l'esclusione dei Balilla dal farsesco voto del 25 novembre non lo spaventa, adesso a noi. Noi ora ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo col punto di Stefano Folli. Italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica. Ed eccoci come sempre in questa seconda parte della trasmissione. Una settimana ancora una volta molto intensa, che se vogliamo si è aperta politicamente con il dibattito tra i candidati alle primarie del centrosinistra. Il momento del punto di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno, Simone. E però non iniziamo dalle primarie del centrosinistra, ma iniziamo da quella che è la stretta attualità di queste ore, ossia quest'ipotesi che si sta facendo largo di un voto a marzo, ossia di un voto anticipato. Da questo punto di vista, tu come la vedi? La situazione, ce lo dicevamo, insomma, prima dell'inizio della trasmissione, la situazione è piuttosto complessa, perché in mezzo ci sono le elezioni nel Lazio, in Lombardia e in Molise. È stato stabilito che saranno il 10 e l'11 febbraio. Sì, guarda, guarda Simone, qui se entriamo in questo questa giravolta di date non se ne esce più. Cerchiamo di prendere la cosa dal punto di vista che interessa più al cittadino, cioè che cosa si fa in questi mesi, che cosa il governo e i partiti pensano di fare in Parlamento decentemente per usare questi mesi e non disperderli. Perché se servono a nulla questi mesi, se è soltanto un attendere in maniera nervosa e rissosa la fine naturale della legislatura, beh, allora effettivamente se si trova un accordo è meglio chiuderla lì, chiuderla prima. Il problema qual è? Che nessuno ha le idee chiare. Una cosa andava fatta ed era la riforma elettorale, non è stata fatta fino adesso, chissà se mai si riuscirà a farla in questo mese che manca poco più. Stefano, Stefano, poi io te lo chiedo ogni settimana, tu mi dici di no, però secondo me alla fine voteremo col porcellum. Ma io ti dico di no perché spero che ci sia un po' di senso di responsabilità, perché non si può, dopo aver esecrato, anche giustamente, il porcellum per tanti anni, poi ritrovarsi a Natale del 2012 a difendere il porcellum. È un comportamento inammissibile. Io ho scritto sul Sole che le forze politiche stanno giocando col fuoco. E qui abbiamo delle forze che esprimono il disagio, il malessere, forze antisistema, che sono sempre più gonfie nei sondaggi. Insomma, qui non è questione di votare a marzo, a febbraio o ad aprile, è come ci si arriva a questo voto, che messaggio si manda al paese. Questo è ciò che i partiti dovrebbero porsi come priorità. Sì, tra l'altro parlavi di forze antisistema, più avanti nel corso della trasmissione ci occuperemo, se così si può definire ormai, un partito che viene accreditato nei sondaggi al 18%, addirittura in alcuni casi parleremo appunto del Movimento 5 Stelle. Sì, ma antisistema nel senso che contesta alla radice quelle che ritiene essere i vizi del sistema attuale. Cioè coglie l'elemento di estrema debolezza di questo sistema partitico e politico, e su questo punto è una forza antisistema, non c'è un giudizio negativo in questo. A proposito di un'eventualità di voto anticipato, su questa vicenda naturalmente sta giocando una partita abbastanza forte ancora una volta lui, il Cavaliere. Lo abbiamo letto nei retroscena sulle riunioni del PDL, insomma si scherzava l'altro giorno su Twitter e si diceva insomma alla fine Alfano sarà costretto a chiamare padre Amort, esci da questo partito. Come si fa, come se ne esce? Ma Silvio Berlusconi non è in grado oggi di svolgere un ruolo rilevante sulla scena politica nazionale, però è in grado di come dire, rendere torbide le acque della sua creatura, la sua vecchia creatura, il PDL. È difficile immaginare un PDL che possa prescindere da Berlusconi, dalla sua volontà. Naturalmente lui è in grado più che altro di distruggerlo oggi questo PDL, di distruggere la prospettiva di Alfano, che sta cercando di organizzarsi delle primarie un po' a imitazione quella del centrosinistra per legittimarsi. E può anche fare di più Berlusconi, può costruirsi questa famosa sua lista personale che può ambire a prendere una percentuale abbastanza modesta, ma che serve a lui per continuare a in qualche modo a influenzare la politica, non, ripeto, non dal primo piano ma da un piano secondario. E quindi questo è il riflesso di una situazione che vede il centrodestra in una crisi profondissima. Allora, non male, a proposito delle vicende del PDL, la battuta che abbiamo trovato sempre su Twitter di David Marchiori, dice primarie PDL, anche se insomma Berlusconi non si candiderebbe, però primarie PDL si voterà in giorni diversi, di domenica quelli che votano Berlusconi, di mergiolì tutti gli altri, insomma. Certo. Anche questa non è niente male. A proposito invece della situazione del centrosinistra, abbiamo parlato di legge elettorale, Stefano. Insomma, sembra che quelli che vogliono tenere il porcellum alla fine stiano proprio là, insomma, sia proprio Bersani. Ma sì, certo, questo si è capito da un pezzo. D'altra parte, la tentazione di avvalersi di una legge che dà un premio di maggioranza spropositato è troppo forte. D'altra parte, insomma, dovranno spiegare un po' agli elettori come mai l'hanno contestata per anni quando questa legge favoriva Berlusconi. D'altra parte era stata concepita per favorire Berlusconi. Due torti non fanno una ragione, ecco, di solito si dice, no? E purtroppo il centrosinistra, a mio avviso, parte con il piede sbagliato se vince le elezioni con il Porcellum. Dovrebbe riuscire a fare qualche cosa di diverso per mandare un messaggio più positivo all'opinione pubblica. Veniamo, rimanendo su questo campo, sul centrosinistra, appunto al dibattito per le primarie. Vi abbiamo raccontato, insomma, all'inizio della trasmissione l'impatto che ha avuto sulla rete, su internet, questo dibattito, un impatto molto importante, se ne è parlato molto. C'è un bel tweet a questo proposito di Insopportabile, dice: tutto così strano, mi sembra di vivere in una democrazia. Non è male, perché effettivamente è stato un bel segnale da parte del centrosinistra, ed è una cosa della quale forse non si può dire che ne sia uscito un vincitore, però si può dire che abbia fatto bene, no, alla coalizione. Ma guarda, Simone, il giudizio che ho dato anch'io sul giornale, però è anche, come dire, una cosa che dobbiamo dire con una certa amarezza. Noi siamo talmente assuefatti a una democrazia che non funziona, che ci meravigliamo e siamo quasi così estasiati di fronte al fatto che si è svolto un dibattito normale in cui si è parlato di problemi, in cui più o meno si davano delle risposte che avevano un senso. E questo però è normale nella maggior parte dei paesi occidentali, e quindi sì, effettivamente è stata una pagina positiva. La cosa sorprendente è che noi ce ne meravigliamo così tanto, dovrebbe essere la norma. E concordi che abbia fatto bene complessivamente la coalizione, no? Sì, certo, è evidente, ha fatto bene, perché è stata una pagina innovativa in cui si è dato la sensazione di un gruppo dirigente in cui non ci saranno dei grandi statisti, ma in cui però tutti più o meno hanno parlato una lingua ragionevole. Stefano, io te lo devo chiedere, perché naturalmente su questo si è fatta grandissima ironia, ma che ne pensi del pantheon di questi candidati alle primarie? Cioè di tutto, Papa Giovanni, Carlo Maria Martini, insomma. No. Ma ne penso, cosa vuoi che pensi? Dico che è un po' la conseguenza dell'epoca in cui stiamo vivendo, in cui non ci sono più le idee chiare, non ci sono più delle radici culturali certe, in cui tutto è mescolato, e soprattutto in cui si cerca più che altro di blandire l'opinione pubblica. Chi è che è contro Papa Giovanni? No? È facilissimo dire Papa Giovanni, perché abbracci una grande estensione di opinione pubblica. Preferirei che si dicesse, per chi se lo ricorda, per chi se lo ricorda, naturalmente, Stefano, perché poi sì, vabbè, certo, tutti i personaggi che sono stati citati richiedono un minimo di cultura e di volontà di guardare al passato. Che il problema è che la nostra società non ha più passato, ecco, questo è un po' il problema, e le forze politiche riflettono anche questa mancanza di saper guardare un po' indietro anche. Grazie anche per questa settimana, Stefano Folli. Ci risentiamo naturalmente sabato intorno a quest'ora. Stefano, buona giornata. Buona giornata a te. Noi ci fermiamo, c'è una breve pausa, ci ritroviamo subito dopo. Parleremo proprio, spostiamo il fuoco, spostiamo l'attenzione, parleremo di primarie del PDL e poi ci occuperemo di Grillo. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Abbiamo parlato poco fa anche con Stefano Folli della situazione all'interno del PDL, abbiamo ampiamente parlato di primarie del centrosinistra, vi abbiamo dato qualche numero da quel lato, insomma, elaborato da altre fonti. Cosa vogliamo fare questa settimana con i numeri? Vogliamo concentrarci su qualcosa che in realtà ancora non si sa se si farà oppure no, ossia le primarie del Popolo della Libertà, stanti i candidati che conosciamo. Riccardo Puglisi, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. E ben ritrovato. Siamo andati a vedere che cosa succede sui profili Twitter dei candidati al momento, appunto, alle presunte primarie del Popolo della Libertà, se non ci mette la zampa il cavaliere. Dunque, convidato di pietra. Dunque, che cosa? Iniziamo da un quadro con generale. I nomi, sì. Allora abbiamo chiaramente tutto il, diciamo, il meccanismo è in divenire. Ci siamo focalizzati su 5 candidati che dovrebbero esserci a queste primarie e sono il segretario del partito Angelino Alfano, sono il sindaco di Pavia, rottamatore del... formattatore del PDL Cattaneo, Daniela Santanchè, Guido Crosetto e Samorì come ultima entry. Quindi è una situazione fluida, come si potrebbe definire. Sì, assolutamente. E devo dire che emerge un utilizzo di Twitter tra i candidati completamente diverso l'uno rispetto all'altro, come forse in parte era anche prevedibile, insomma. Cioè chi... c'è più, direi che c'è, rispetto, avevamo fatto l'analisi sulle primarie del PD, direi che c'è quasi più eterogeneità nel PDL. Quindi abbiamo, innanzitutto per i numeri, abbiamo evidentemente, non ci stupisce il fatto che il candidato che ha più follower è il segretario del PDL Alfano, e a 40.000 follower, mentre la Santanchè ne ha 15.000. Uno paragonabile è Crosetto, che ha all'incirca 10.000 follower, ma è la differenza nell'uso che stupisce, perché abbiamo per esempio Crosetto che è estremamente bravo a usare il mezzo, forse anche troppo bravo, nel senso che usa molto Twitter per dialogare. Quindi nel periodo che ho considerato, ovvero sì, io mi sono basato, sono partito dall'agosto di quest'anno, a 2.800 tweet, quindi un numero abbastanza importante, e in buona sostanza le conversazioni dirette, cioè i messaggi che iniziano con la chiocciola del destinatario, sono il 90%. Cioè solo il 10% sono tweet che non sono un dialogo. E questo è molto bello, lo diciamo sempre, insomma, il senso anche dell'uso dei social network non deve essere solamente quello di fare propaganda, ma appunto di dialogare. Evidentemente Crosetto dialoga un po' con tutti, insomma, anche con i cittadini. Ti chiedo, Riccardo, prima di andare sui numeri degli altri, di riportarmi a quello che è stato il tweet che è circolato di più di Guido Crosetto, perché io me lo ricordo ed era veramente stupendo. Erano i giorni nei quali nei quali circolava la voce che Berlusconi, insomma, era interessato a portare Briatore in politica. Che cosa ha scritto Crosetto? Poi si è portato lui da Briatore, ma comunque il messaggio è il seguente: è che Renzi è molto più bravo, lo ammetto, fa casino per 4 mesi nel PD e Veltroni da Lema non si candida. Io 2 anni al PDL e arriva Briatore. Vedi. Quindi proprio bello secco. Allora andiamo a vedere gli altri. Iniziamo da Daniela Santanchè, che pare avere una passione smodata per la TV. O la radio, perché la sentiamo anche a questi microfoni spesso. Direi che la Santanchè ha un numero di tweet in realtà basso, perché sono 82 nel periodo, non dialoga sostanzialmente, ma mette moltissimi link, e se uno va a vedere le parole chiave, rimanda le parole chiave che compaiono più spesso: diretta, ore, Rai, intervista, collegamento, racconta della sua esperienza televisiva. Quindi da un certo punto di vista è anche sensato, nel senso che la televisione ha un bacino d'utenza superiore rispetto a Twitter, così come stanno le cose. Naturalmente. E invece per quanto riguarda Crosetto, sull'analisi delle parole, c'è molto di se stesso, mi sembra di capire. Crosetto parla di se stesso, parla anche dell'interlocutore, quindi parole come sono, io, ti, tu, compaiono. Una cosa che mi ha abbastanza stupito è il fatto che la settima parola per frequenza è ha, cioè risata di Crosetto rispetto alla battuta di un altro. Adesso non so se questo è il luogo per i consigli, ma ogni tanto mi verrebbe da dire che Crosetto dovrebbe mettere un punto davanti alla sua risposta in maniera che la conversazione possa eventualmente diventare pubblica. Se del caso, se lo pensa, perché in realtà non lo fa mai. Alfano molto istituzionale. Alfano, temo di poter dire che anche su Twitter non ha il quid, come diceva il cavaliere. È molto istituzionale, nel senso che è interessante il fatto che non c'ha varianza praticamente nel numero di tweet che manda al giorno, perché ne manda 1, 2, 3 al giorno in maniera molto costante, molto istituzionale, lo si vede dalle parole che utilizza: PDL, governo, primaria, abbiamo, coraggio, Monti, scelta. Molto da segretario. Da segretario, paludato. Gli altri due, gli outsider veri e propri, ossia Samorì, che chissà se è un outsider, che questo ancora non si è capito bene. Non è chiaro. Chiamiamolo così, e Cattaneo. Allora, diciamo che Samori ha un 34 tweet, molto spesso rimanda, parla molto di Berlusconi. Direi abbastanza bravo il, ho un conflitto di interesse, nel senso che è il sindaco della mia città, Alessandro Cattaneo, che fa parte di questi formattatori del PDL, ha mandato nel periodo un 350 tweet, conversa abbastanza, ma non tanti, fa un 30% di conversazioni, e anche lui parla, è più politico, e soprattutto parla molto della sua candidatura, collegandola a questo tema del formattare il PDL. Grazie anche per questa settimana, Riccardo Puglisi. Vi ricordo che lo trovate su Twitter, è Rick Puglisi, e poi, insomma, se fate una ricerca su internet trovate tutto di lui, collabora anche con l'inchiesta, insomma ci sono un mucchio di cose. Riccardo, grazie, grazie e buona giornata. Grazie agli ascoltatori. E dunque, dopo aver sentito i numeri sulle primarie del PDL, veniamo adesso ad un altro tema. Abbiamo parlato parecchio di centrosinistra nella prima parte, avete sentito tutti i temi politici nel punto di Stefano Folli, adesso vogliamo occuparci di Beppe Grillo, tornare ad occuparci di Movimento 5 Stelle, ma concentrandoci su un aspetto specifico. Abbiamo già parlato nel corso di questa trasmissione di come si stia modificando e in un certo qual modo anche stia peggiorando il linguaggio in rete, stia diventando, se vogliamo, più crudo. Vi abbiamo parlato in una puntata, lo ricorderete, dei troll dei politici, cioè quelli che i disturbatori dei politici, se così possiamo chiamarli, su Twitter e in rete in genere. E prendiamo spunto questa settimana da una parte da un post di Beppe Grillo che si scaglia contro il politicamente corretto e poi da un pezzo uscito su Repubblica di Francesco Merlo proprio su questi temi qua. In generale era su Grillo, ma poi si sofferma alla fine sul linguaggio. Io saluto Andrea Scanzi, che è giornalista del Fatto Quotidiano, autore di Ve lo do io Beppe Grillo. Andrea, buongiorno. Buongiorno a voi. E Giuliano Santoro, che è ospite invece che al telefono nei nostri studi di Roma, autore di Un Grillo Qualunque, il Movimento 5 Stelle e il populismo digitale nella crisi dei partiti italiani, uscito da poco. Giuliano, buongiorno. Buongiorno. Allora, partirei da questi due elementi che dicevamo. Grillo dice: l'indignazione gridata è una minaccia, ogni giudizio è un'offesa al galateo, alla forma, ad una categoria. Il sistema, nelle sue varie e molteplici forme diverse ma protette dal medesimo scudo di perbenismo, da una vernice di merda decennale che non puzza ma soltanto odora, usa il politically correct per mozzare le lingue, etichettare, isolare chiunque ritenga altro da sé. Questa la tesi. Scrive invece Francesco Merlo sulla Repubblica: c'è l'eredità del giornalismo berlusconiano senza più mascherature, disprezzo, insulto, gogna, neppure una parola ispirata alla vera carità. Ho contato 17.300 basta, 9.940 culo, 9.090 cazzo, 8.130 merda e 4.350 nazismo o nazisti, 2.710 Hitler. Allora, qua abbiamo due posizioni diverse e io partirei da Andrea Scanzi, che insomma su questi temi ha scritto e anche favorevolmente rispetto al linguaggio utilizzato da Grillo. Andrea, in breve la tua posizione innanzitutto. La mia posizione è la stessa che avevo 5 anni fa quando è uscito il libro la prima volta. Io ricordo un articolo di Daniele Luttazzi molto bello, sul cosa e sul come, e lui giustamente diceva: nel momento esatto in cui un satirico comincia a fare politica si genera un cortocircuito semantico, perché il linguaggio del comico, del satirico, non c'entra niente col linguaggio della politica. E questo è quello che capita da 5 anni quando si parla di Beppe Grillo, cioè la prima maniera per disinnescarlo è dire: è volgare, è triviale, è qualunquista, è populista. E l'articolo di Francesco Merlo, che è uno dei tanti articoli fuori tempo massimo di Francesco Merlo, perché arriva sempre 5 o 15 anni dopo, è l'ennesima conferma. Io sono d'accordo che sia volgare, sia triviale, sono d'accordo che è un cortocircuito semantico, dopodiché non mi ha mai scandalizzato particolarmente il linguaggio di Beppe Grillo. È un linguaggio che a volte fa ridere, a volte non fa ridere, però secondo me è un guardare il dito e non la luna, e attraverso questo guardare il dito, cioè la volgarità e non la luna, finora si è fatto un gran favore al Movimento 5 Stelle, che è abbassato al 20% dei sondaggi. Andrea, però Il punto è l'impatto che poi tutto questo ha sul dibattito in rete e su quello che andiamo a trovare all'interno del Movimento 5 Stelle, nelle parole dei, non dei militanti, come vogliamo chiamarli, attivisti del Movimento 5 Stelle, così insomma vogliono essere chiamati. Tutto questo si riflette in questo linguaggio, quindi il cortocircuito semantico del quale tu parli è corretto forse se parliamo solamente di Grillo e del comico che entra nella politica, che entra sulla scena politica, e poi però c'è la gente che insomma non sono comici quelli. Sì, avresti ragione, il problema è che la volgarità non è esclusiva degli attivisti 5 Stelle in rete, cioè questa è un'altra finzione che io sto leggendo negli ultimi giorni e mi fa molto ridere. Io scrivo di tanti argomenti e sono la prova vivente che in rete non è che i bari sono soltanto gli attivisti 5 Stelle, io me lo leggo il blog di Grillo e ci sono dei post terrificanti, ma i post terrificanti li leggo anche nel sito del Fatto Quotidiano. Da quando scrivo io ho ricevuto minacce di morte dai tifosi del Milan, dell'Inter, della Juventus, di Federer, di Ligabue, di Vasco Rossi, ultimamente di Marco Mengoni. Cioè la rete purtroppo non è che la volgarità è esclusiva, come sostiene Merlo, degli attivisti 5 Stelle. La rete, attraverso la finzione del nickname, dell'avatar, dell'anonimo, ti permette di insultare tranquillamente chiunque. All'interno del Movimento 5 Stelle ci sono dei buzzurri che parlano come Grillo senza avere il talento di Grillo, però mi sembra, e questa è un altra distinzione tra Movimento 5 Stelle e Lega ad esempio, che se il megafono Movimento 5 Stelle, cioè Grillo, è volgare, gli attivisti 5 Stelle che vengono un po' alla luce della ribalta, penso a Cancelleri, penso a Pizzarotti, non sono volgari, casomai sembrano usciti adesso dal coro della Chiesa. Giuliano Santoro, io devo dire la verità qua, lo dico anche ad Andrea Scanzi, ho una posizione lievemente diversa da questo lato, perché la mia idea è che quando il politicamente scorretto entra nel linguaggio pubblico e nel discorso politico, qualche rischio oggettivamente c'è, perché poi entra anche nella testa della gente, il passo dal politicamente scorretto nel linguaggio a quello nei fatti è molto breve. Giuliano Santoro. Io penso che bisognerebbe porli in un altro modo rispetto all'essere politicamente scorretti o politicamente corretti, perché in questo modo Grillo fa un'operazione da conoscitore dei meccanismi della comunicazione, qual è, molto sottile, molto subliminale, cioè fare passare tutti quelli che lo criticano per dei salottieri da merini che si scandalizzano quando qualcuno manda a quel paese qualcun altro. Non è questo, è che con la scusa dell'ironia, esattamente come è avvenuto negli ultimi 20 anni in questo paese, con la scusa dell'ironia, della leggerezza, del parlare come la gente con 3G, con questa scusa qui si abbassa il livello del discorso. Si abbassa il livello del discorso e si agisce, come avviene sempre più spesso in rete, da quando la rete è diventata ormai un mezzo aperto alle masse, per fortuna, una cosa positiva. Questo però ha anche delle controindicazioni. Una di queste controindicazioni è proprio il fatto che in rete si comunica non con la ragione, non con l'intelletto, non con le informazioni che circolano, ma si comunica soprattutto con le emozioni. Non è un caso che Beppe Grillo, nell'articolo che citavi tu di Merlo, si parla dei nomi storpiati. Perché? Perché le polemiche che vengono fatte da Beppe Grillo non riguardano mai, partono da una questione politica, ma arrivano sempre a un attacco a una persona. Questo per un motivo molto semplice, perché attaccare una persona è molto più, ha un impatto emotivo molto più forte rispetto che fare un ragionamento più articolato che investe dei fenomeni sociali, culturali. È molto più facile attaccare direttamente una persona e soprattutto mettergli un nomignolo, chiamare Pisapia Pisapippa, insomma è una cosa che oggettivamente passa, e uno, un profondo conoscitore del linguaggio della comunicazione televisiva di Beppe Grillo, questo lo sa. Dopodiché è vero quello che dice Andrea, cioè in rete circola di tutto e abbiamo visto in questi anni di tutto. Altra cosa però è assecondare questo tutto e in qualche modo accarezzarlo. Giuliano, ti fermo un attimo, abbiamo una breve pausa per la viabilità, ci ritroviamo subito dopo. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Ed eccoci di nuovo con Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, autore di Ve lo do io Beppe Grillo, Giuliano Santoro, ospite nei nostri studi di Roma, autore di Un Grillo qualunque, quindi su posizioni diverse. Giuliano, ci stai dicendo la questione dell'accarezzare questi sentimenti, queste emozioni, quella che viene chiamata, se vogliamo, la pancia del paese, insomma, con un termine ormai abusato. Sì, un filosofo francese che si chiama Baudrillard ha detto: non sono i media che instupidiscono le masse, è la massa che quando entra nei media la instupidisce. Questo non vuol dire essere elitari e disprezzare la massa, vuol dire che quando si identifica un soggetto collettivo come una massa generale, senza delle differenziazioni, senza blocchi di interessi riconosciuti, e questo è l'uso della retorica dei cittadini che fa Grillo, che vuol dire tutto e niente, tutto è cittadini contro palazzo, come se i cittadini fossero completamente alieni alle colpe di questo paese, come se non fossero dentro le reti di potere, le reti clientelari, e questa cosa contribuisce all'abbassamento del livello del discorso, questo rito orgiastico di autoassoluzione collettiva. Andrea Scanzi, è vero che c'è un po' questo accarezzare, no, i sentimenti, se vogliamo anche più turpi, insomma, perché sarà pur vero che quelli del PD e del PDL sul blog del Fatto, insomma, ti insultano, ti trattano male. Ed è vero che queste cose avvengono in rete, è vero però che non hanno leader che accarezzano questi sentimenti. Sì, questo è vero. No, questo è vero, ed è vero che Beppe Grillo è sicuramente uno che è stato bravo sin dall'inizio ad accarezzare la pancia, e adesso questa capacità di parlare alla pancia del paese, di farlo sorridere non soltanto con la testa ma proprio con gli istinti più primordiali, sta pagando da un punto di vista elettorale. Se tu mi chiedi se è l'aspetto che mi piace di più Beppe Grillo, ti rispondo sicuramente di no. Io credo anche due cose. La prima, e questo gliene va un po' dato atto a Beppe Grillo, è che le stesse cose che dice oggi le diceva 20 anni fa, e quindi in qualche modo nel suo percorso, anche pregi e difetti, io avverto una certa coerenza, perché anche quel suo accarezzare il cittadino, quel suo generalizzare, un aspetto che mi è sempre piaciuto poco di Grillo, quel dire noi siamo il bene, dall'altra parte c'è il male, lo diceva anche nei primissimi spettacoli teatrali, nei palazzetti del 92-94, quindi in qualche modo adesso sta raccogliendo il consenso che già c'era 20 anni fa. La seconda cosa, e qui mi leggo a quello che stava dicendo Giuliano, che in parte condividevo, io trovo che questo suo parlare alla pancia del paese non sia sempre positivo anzitutto per Beppe Grillo, cioè quando lui parla alla pancia, quando lui usa il nomignolo, che a me non scandalizza però raramente fa ridere, 9 volte su 10 la stampa, soprattutto la stampa in qualche modo riformista, perbenista, quella che viene letta di più nelle edicole, si sofferma su quello, magari dice delle cose molto intelligenti Beppe Grillo nei post, poi però c'è il Pisapippa, c'è Alzheimer Prodi, c'è Psiconano, e tutti si soffermano su quello. Io a volte ho la sensazione che Beppe Grillo, per questo gusto di parlare alla pancia, per questo gusto per la pasquinata, faccia un po' del male a se stesso, perché il suo contenuto viene in qualche modo disinnescato dalla sua forma. Giuliano Santoro, vorrei, abbiamo due battute alla fine, ne riserverei una a te e una ad Andrea Scanzi. Hai citato giustamente la questione di quando la massa, no, entra all'interno dei media. Hai l'impressione però che complessivamente negli ultimi anni, con questa crescita del Movimento 5 Stelle, il linguaggio sulla rete, il linguaggio politico, il discorso politico sia peggiorato, o è semplicemente un fatto naturale? Io penso che l'ingresso appunto della massa su internet, soprattutto nei social network e soprattutto su Facebook, sia un'ottima opportunità che comporta dei rischi. Il libro che ho cercato di scrivere è esattamente usare un esempio che tutti ormai conosciamo, che è Beppe Grillo, per fare un ragionamento esattamente su quello che dicevi tu. Che cosa succede quando 14 milioni di italiani ogni giorno accedono al proprio profilo Facebook e navigano su internet? Questa cosa comporta delle grandi possibilità, ma anche dei grandi rischi. Non è automaticamente una cosa positiva, come dice Casaleggio. Non è così. Faccio un ultimo esempio. C'è questo sociologo dei media americano che si chiama Stephen Duncombe, che scrisse anni fa, in pieno bushismo, un libro per chiedersi com'è possibile che tutti sappiamo che la pistola fumante che ha causato l'attacco all'Iraq e la guerra in Iraq e l'attacco all'Iraq di Bush era un falso. Lo sappiamo tutti, l'ha scritto il New York Times in prima pagina, ma Bush ha rivinto le elezioni. Quindi non basta avere le informazioni giuste, anche se ovviamente è una precondizione fondamentale. È importante che queste informazioni vengano veicolate in un certo modo e che costruiscano un giusto frame, come mi riferisco alla COF nel libro. Questo è fondamentale, perché altrimenti la forma, come nel caso di Grillo, distrugge la sostanza, e io penso che è quello che stia avvenendo. Per cui dire guardiamo alla sostanza e lasciamo perdere le forme, anche se lasciano il tempo che trovano, è sbagliato, perché quando si parla di comunicazione la forma e sostanza. Andrea Scanzi, per chiudere anche con te, c'è il rischio che tutto questo porti ad un peggioramento complessivo del dibattito in rete, o questo è perfettamente naturale che avvenga? No, è naturale che avvenga, non c'è un rischio di peggioramento. La rete purtroppo è stata questo e il suo contrario. La rete ha degli aspetti straordinariamente positivi e degli aspetti straordinariamente negativi. Si tratta soltanto di saper scegliere, saper leggere e cercare di non farsi danneggiare da quello che si legge, a volte anche a proprio danno. Ha ragione Santoro quando dice che forma è sostanza e sostanza è forma, ma io non dico che nel caso di Grillo la forma non conti. Dico semplicemente che non mi scandalizza così tanto e che non la trovo così grave. È tutto questo, è tutto qui il discorso. Mi sembra che attaccare sulla forma, come veniva fatto anche 4 anni fa, già da Repubblica, da Scalfari, dall'Espresso, e dire è soltanto populismo, è soltanto qualunquismo, non serva a cercare di spiegare il Movimento 5 Stelle, che è stato sottovalutato, e secondo me se lo si continua ad attaccare o a cercare di disinnescare attraverso il meccanismo un po' perbenista e un po' bigotto della forma, secondo me non si ottiene nulla. Io credo che i difetti del Movimento 5 Stelle ci siano, ma non appartengano alla forma del megafono Beppe Grillo, siano altri, siano il programma aleatorio, siano alcune cantonate che hanno preso, siano la presa di posizione sullo Ius Soli. Se poi Beppe Grillo dice Pisapippa, io non rido, ma francamente né mi scandalizza né credo che quel Pisapippa genererà dei drammi nell'umanità mondiale. Grazie a Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, autore di Ve lo do io Beppe Grillo, e grazie a Giuliano Santoro, che avete sentito nei nostri studi di Roma, autore di Un Grillo qualunque, il Movimento 5 Stelle e il populismo digitale nella crisi dei partiti. Grazie a tutti voi e grazie naturalmente a Roberto Scaltritti in regia. Il solito ringraziamento per l'ascolto. Potete poi scaricare la trasmissione in podcast, potete seguirci su Facebook, su Twitter, in entrambi casi è Vota Antonio R24 la pagina. Potete anche seguire me su Twitter se volete, Simone Spetia. Buona giornata. Italia!